Rossa. Buongiorno a te. Professore, non mi dica che si sente male, eh? Come sta? Il telefono, eh? No, telefono, il telefono. No, il telefono, dicevo. Ti piace vivere come vuoi. Sull'olio al supermercato ci sarebbe da rimanere qui tutta la giornata. Sicuramente la fonte di calore. Non vuole rimanere, vedi? Ha già messo le mani avanti, ha detto. Da tutta gli chiediamo la una sintesi per rimanere quanto necessario. Come sta? E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Una parola difficilissima che per ogni tanto ricompare sui giornali e richiama la nostra attenzione. Non è spread, non è quantitative easing, la parola è italiana, ma effettivamente non è che si pronunci tanto facilmente. Anatocismo. Allora, se apriamo il vocabolario, oppure se cerchiamo di orientarci nel gergo bancario e finanziario, apprendiamo che con anatocismo si intende la produzione di interessi, quindi capitalizzazione da altri interessi, ho preso proprio la definizione letterale, resi produttivi, sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale. Nella prassi bancaria questi interessi vengono definiti composti. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse attivo su un conto corrente o per qualcuno anche il calcolo dell'interesse passivo su un mutuo. Ma insomma, so che probabilmente leggendo questa definizione non vi abbiamo aiutati troppo a capire il significato. Potremmo sintetizzarla con l'espressione interesse sugli interessi, ma tra poco per aiutare tutti a capire ci verranno in soccorso anche i nostri ospiti. Noi perché abbiamo deciso di parlare di questo argomento? Perché da anni l'applicazione di questo meccanismo, del meccanismo anatocistico, è al centro di aspre battaglie da parte di alcune associazioni dei consumatori. Una di queste ha ottenuto un importante risultato qualche giorno fa. Ci riferiamo al Movimento Consumatori, che è riuscito ad ottenere che il Tribunale di Milano accogliesse i suoi ricorsi contro un gruppo di istituti di credito. Il Tribunale milanese cosa ha fatto? Ha inibito nei confronti di queste tre grandi banche l'applicazione degli interessi sugli interessi. Allora, che ricadute pratiche ha questa iniziativa del Tribunale del Capoluogo Lombardo? E se arriva a casa l'estratto conto, a quale voce dobbiamo prestare attenzione per capire se la banca applica questo meccanismo e se siamo nel diritto di contestare questa iniziativa della banca? 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Mettete mano alla cornetta se è un tema che vi incuriosisce. Noi stamattina ne discutiamo intanto con l'avvocato Paolo Fiorio, legale del Movimento Consumatori, a cui dobbiamo questo risultato presso il Tribunale Lombardo. Avvocato, buongiorno, ben ritrovato intanto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Per una volta tanto non parliamo delle vicende di Fondiaria Sai, con la quale insieme a lei ci siamo lungamente intrattenuti in passato. Saluto e ringrazio perché invece ci ha raggiunto qui negli studi di Milano l'avvocato Edoardo Staunovo, socio dello studio Tarsi e esperto in diritto bancario. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Nella parte di cuore invece oggi parleremo a partire dalle 12 di sonno, perché il sonno è vita, le ricerche lo dimostrano, le sue funzioni sono infinite. Oltre a proteggere il cervello e le sue proprietà cognitive, consolida la memoria, migliora l'apprendimento fino a consentire al cervello di, come dire, fare le pulizie eliminando le scorie prodotte dalle cellule cerebrali. Pensate, quindi è molto prezioso, ma come le cose preziose è anche delicato. Basta poco infatti per metterlo in crisi, ma noi possiamo fare qualcosa per assicurargli una buona qualità. Allora, oggi parleremo proprio delle regole dell'igiene del sonno e dei rimedi naturali per aiutare coloro che soffrono di disturbi del sonno ma lievi. Per cui anche in questo caso, se avete un interesse su questo argomento, 800 24 00 24, diteci se in questo periodo ci sono dei motivi che vi fanno perdere qualche ora di sonno. Potrebbero essere preoccupazioni economiche, chi non ne ha in questo momento, familiari, sentimentali, di lavoro. Li avete individuati? Vi riconoscete? Cosa fate per risolverli? iniziate a raccontarcelo, se volete anche al 349-238-6666, ne parleremo, vi ribadisco, a partire dalle 12. Io vado in banca, stipendio fisso. Ho avuto tanto dei serpenti, e delle banche. Allora, è più facile incontrare una banca che un serpente. E per l'estate mi la banca marca come se fossi Messi, l'attaccante del Barcellona. Oggi vai in banca e tentano di darti un pacco, un pacchetto, lo chiamano loro in realtà molto spesso. Che a volte un è un pacco. Io vado in banca. Allora, come avete sentito gli ascoltatori, insomma, a chiunque di noi si chieda di raccontare se ha avuto qualche disavventura con la banca, potremmo aprire qua una letteratura ricchissima. Insomma, capita che la banca faccia qualche volta qualche dispettuccio. Noi oggi ne parliamo di uno un po' complicato anche solo a pronunciarlo, figuratevi a spiegarlo. Comunque parliamo di anatocismo bancario. Sappiamo che prima di tutto questa parola dobbiamo spiegarvela e poi naturalmente cercheremo anche di capire perché è tornata alla ribalta della cronaca finanziaria. Avvocato Edoardo Staunuovo, inizio subito da lei, le chiedo di spiegarci nella maniera più semplice possibile e comprensibile intanto che cos'è l'anatocismo bancario. Io ho solo dato proprio una definizione molto veloce, prima l'ho scopiazzata ieri per la verità, però insomma una traduzione letterale è abbastanza complessa, ci faccia un po' capire. Allora, la definizione più efficace per la comprensione immediata è quella della produzione di interessi su interessi. Questo è un fenomeno che riguarda sia i crediti dei clienti verso le banche, cioè i depositi di conto corrente, in questo caso l'anatocismo opera a loro favore, sia invece i conti con saldo passivo, in questo caso l'anatocismo opera contro il cliente a favore della banca. Il problema però riguarda principalmente chi opera con conti con saldo passivo, quindi chi è affidato di norma, chi ha un'apertura di credito, comunque chi va nella parte rossa dell'estratto certo. conto. C'è un esempio che può facilitare veramente la comprensione da parte di chiunque. Lo faccio con due date e due numeri. Il 1 gennaio un cliente preleva 10.000 euro dall'affidamento e ha un tasso debitore, supponiamo, del 5%. Poniamo che questo debito di 10.000 euro rimanga invariato per tutto il trimestre, di solito la liquidazione degli interessi è trimestrale. Avviene su base trimestrale, sì. Al termine del trimestre, cioè il 31 marzo, la banca liquiderà gli interessi al 5% su questi 10.000 euro e quindi addebiterà in conto 500 euro. Supponiamo che questo debito di 10.000 più 500 rimanga invariato ancora per tutto il trimestre, ovviamente può succedere anche diversamente, ma per semplicità facciamo questa ipotesi. Abbiamo già capito che gli interessi saranno applicati su 10.500. Quindi al 30 giugno gli interessi vengono applicati su 10.500, quindi non sono più 500 euro, ma sono 525 euro e così via, trimestre per trimestre il debito si gonfia perché il capitale è gonfiato degli interessi che diventano capitale, di qui la parola capitalizzazione. Chiarissimo. La domanda successiva viene da sé, avvocato. Quali sono i sintomi, per usare un termine che piacerebbe molto alla mia cara Nicoletta che oggi non è in trasmissione con me, come possiamo accorgerci che la nostra banca sta mettendo in pratica l'anatocismo? Cosa dobbiamo controllare? Appunto, lei prima ci ricordava il conteggio degli interessi avviene su base trimestrale, su base trimestrale la banca ci invia l'estratto conto. Che voce dobbiamo andare a controllare? Allora, per questo specifico tema c'è un dato di fatto che è semplificatorio, per fortuna, da questo punto di vista. E il dato è che dagli anni 50 le banche hanno sempre applicato interessi anatocistici e quindi capitalizzati. Mm. Quindi tutti i clienti sanno che gli interessi che gli sono stati applicati anche nella liquidazione del trimestre appena trascorso hanno l'anatocismo. Il punto è capire quanto incide l'anatocismo, cioè quanti di questi interessi sono stati addebitati con questo calcolo. E quindi bisogna vedere gli estratti conto scalari. Certo. E negli scalari bisogna fare un'operazione aritmetica che consenta di scorporare gli interessi semplici dagli interessi composti. Lo sanno bene le associazioni dei consumatori che hanno dovuto gestire molte di queste situazioni di mancata chiarezza. Allora io intanto ringrazio per questo primo contributo dell'avvocato Staunuovo, appunto, che ci ha tratteggiato, come dire, con la definizione dell'anatocismo un punto della situazione partendo dalla definizione di questo fenomeno. Adesso dobbiamo arrivare a capire perché siamo tornati a parlare parlarne, dopo che negli anni passati ci sono state altre associazioni dei consumatori, in aggiunta a quella di cui parliamo questa mattina, che in realtà hanno combattuto molto duramente questa pratica, con risultati più o meno felici sul territorio, con qualche pronuncia di qualche tribunale, ma qua abbiamo fatto di recente un passo in avanti. Intanto vedo già molti ascoltatori pronti ad intervenire all'800 24 00 24. Si è già candidato Fabrizio da Genova, a cui chiedo un minutino di pazienza, poi sentiremo la sua testimonianza. Ne parlavamo a microfoni spenti con l'avvocato Staunovo, ma anche con l'avvocato Fiorio, prima di partire con la trasmissione, e ci dicevamo: è un problema che potrebbe essere di certamente rilevanza per un piccolo consumatore, un piccolo correntista appunto di una banca, che però a fare i conti magari avrebbe come pregiudizio cifre di poco conto, no? Il problema grosso qua sta per gli imprenditori che vivono di affidamenti, di scoperti di conto, e che invece possono pagare un conto molto salato alla fine dell'anno per l'applicazione appunto di questo meccanismo. Avvocato Fiorio, eccomi a lei. Come anticipavo prima, grazie ad una iniziativa intrapresa dal Movimento dei Consumatori, il Tribunale di Milano, con due provvedimenti cautelari depositati il 14 aprile, ha accolto le domande inibitorie che avevate proposto voi per proprio inibire l'anatocismo nei conti correnti bancari a partire dal 1 gennaio 2014. E quindi tre banche sono state appunto proprio tre esplicitamente inibite nel continuare ad applicare la pratica anatocistica, anche se voi avete nel mirino praticamente tutte le banche italiane. Ci spiega meglio com'è andata, perché siete arrivati, come avete fatto ad arrivare a questo risultato? Sì, allora, come vi ho ricordato prima, l'anatocismo è una battaglia che dura in Italia da più di 15 anni, nel senso che faccio un piccolo riepilogo storico. Dagli anni 40-50 le banche hanno sempre applicato gli interessi anatocistici. Nel 99 la Cassazione ha ritenuto che fossero illegittimi, poi sono intervenute delle norme che hanno salvato le banche, hanno consentito nel periodo dal 99 in poi che potessero a certe condizioni essere applicati. Se non che la legge finanziaria per il 2014, la legge di stabilità, sì, ha introdotto un divieto esplicito di ogni forma di capitalizzazione nelle operazioni bancarie. Andando a modificare il TUB, il testo unico bancario. Il testo unico bancario è stato modificato in questo senso, e la nostra associazione, il Movimento Consumatori, ha fatto un'indagine sull'applicazione, sull'adeguamento delle banche a questa norma, e ancora a novembre del 2014 ha visto che tutte le banche che erano state oggetto di analisi continuavano a praticare gli interessi anatocistici, quindi a capitalizzare gli interessi scaduti. C'è da dire però, avvocato Fiorio, che le banche, diciamo, non è che avessero proprio del tutto torto a fare questo, almeno secondo la loro interpretazione, perché quella legge di stabilità che modificava il testo unico bancario aveva anche detto: il Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio deve regolamentare alcuni aspetti che fino adesso la legge non ha mai regolamentato, per cui il CICR non ha fatto nulla, le banche in questo vuoto normativo, chiamiamolo così, hanno continuato ad agire secondo il loro interesse. Beh sì, distorcendo completamente il significato chiaro della legge, nel senso che questo è quanto è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano, perché il Tribunale di Milano ha affrontato questa difesa delle banche, che era una delle principali difese che sono state svolte in quel giudizio, e ha riconosciuto come la legge, a prescindere dall'attuazione che deve essere data dal CICR, è chiarissima, per cui il CICR non potrebbe in ogni caso prevedere delle modalità che comportino una pratica anatocistica. Ci sono tutta una serie di problemi che sono sicuramente molto importanti, di come poi verranno gestiti i conti correnti quando vi saranno le nuove norme del CICR, però un dato è chiaro: gli interessi scaduti non potevano essere portati sul conto corrente come capitale e produrre nuovi interessi. Nuovi interessi, chiaro. Allora, un'indagine di gennaio, ci ricordava l'avvocato Fiorio, con la quale Movimento Consumatori ha scoperto che, nonostante il divieto operi da più di 16 mesi, le banche abbiano continuato ad applicare gli interessi anatocistici per il 2014, comportando l'addebito di interessi illegittimi stimati per tutte le banche italiane in oltre 2 miliardi di euro. Quindi magari nel conto corrente utente di Zia Maria saranno anche costi risibili, e Zia Maria avrà pagato, non so, 10 euro in un anno se sul suo conto, finito in rosso qualche volta, la banca avesse applicato interessi di questo tipo. Per un'impresa, avvocato Staunovo, può significare invece un danno molto più grande. Eh sì, le imprese operano sul credito bancario, mai come in questo periodo le imprese hanno necessità di credito bancario, e gli importi degli affidamenti sono spesso consistenti, affidamenti di decine o centinaia di migliaia di euro. Se si suppone il loro utilizzo e dei tassi debitori su apercredito e fuorifido, in caso di fuorifido, ma anche i tassi debitori sull'operazione di anticipazione, sono tutte operazioni che portano a delle liquidazioni di interessi piuttosto consistenti. Quindi se un'impresa ha un addebito di 15.000 euro di interessi a fine trimestre, quei 15.000 euro si vanno poi a capitalizzare e creano un effetto anatocistico abbastanza consistente, direi, esatto, tanto per usare un eufemismo. Sentiamo se questo è il caso di Fabrizio da Genova, che è il nostro primo ascoltatore a mettersi questa mattina in lista per darci la sua testimonianza. Fabrizio, all'800 24 00 24, lo saluto, un passato Buongiorno. Da imprenditore, Fabrizio, che mi pare di aver capito abbia pagato pesantemente per questa situazione. Ma dunque, allora, la questione è questa: io faccio l'imprenditore, sono un libero professionista, comunque sono cliente di una banca, la UBI Banca, dal 2000, quindi sono circa 15 anni. Ora, non ci sono stati grandi movimenti, sono sempre stato in rosso. Quindi io voglio andare direttamente al sodo, visto che poi si presentano anche delle aziende, di cui forse non è il caso di fare il nome, che fanno questo mestiere, e comunque diciamo, non parliamo di associazioni di consumatori, ma parliamo di aziende che cercano di recuperare di recupero crediti, certo, però sono nell'occhio del ciclone, insomma, alcune di queste. Ora, infatti, io ho sentito di molta gente che si affida a queste. Io voglio evitare di incontrare certi personaggi. No, lei vorrebbe, perché, insomma, rivendicare direttamente nei confronti della banca quello che ritiene sia suo. Certamente, perché oltretutto ultimamente, per motivi che non sto a raccontare, hanno cercato in qualche modo di togliermi un fido anche molto piccolo, con delle scuse assurde, vabbè. Ma a prescindere, quindi io dico, per arrivare al sodo, cosa dobbiamo fare? Perché è vero che gli imprenditori hanno il danno più grosso, e ho il massimo rispetto, perché in qualche modo lo sono anch'io, però ci sono veramente centinaia di migliaia, e se non milioni, di persone, anche la Maria di turno, a cui vengono portati via i 10 euro all'anno e fanno le cifre di cui lei ha parlato prima. Allora io dico, io ho bisogno di cose concrete, nel senso che io ho bisogno di dire questo numero di telefono, cioè chi devo contattare. Fabrizio, abbiamo capito chiarissimo, lei ha solamente anticipato una parte della nostra trasmissione. Questa mattina cercheremo di capire intanto come si muoveranno le associazioni dei consumatori. È chiaro che come dire, un po' l'unione fa la forza, però ci sono tante altre vie. Ci sono intanto quelle canoniche, quelle tradizionali, l'ufficio reclami della banca. Oggi abbiamo anche la giustizia alternativa, c'è l'arbitro bancario finanziario. Molte banche hanno sottoscritto protocolli di conciliazione con le associazioni dei consumatori, in virtù delle quali dei quali appunto risolvono molti casi di conflittualità, per cui le strade sono molte. Bisogna capire qual è quella pertinente in questa situazione, in cui ancora però si vive, secondo le banche, in una condizione di vuoto normativo, perché il CICRA non ha detto la sua. La Banca d'Italia gli ha dato anche ragione, per cui la Banca d'Italia ha anche detto che la previsione di abolizione dell'anatocismo di cui è questo nuovo testo dell'articolo bancario sarebbe rimasta sospesa fino all'emanazione da parte del comitato di una delibera ad hoc, per cui sostiene un po' la ragione no, avvocato Staunovo, delle banche. Sì, in realtà le banche si sono adeguate al parere della Banca della d'Italia, Banca d'Italia, per cui forti di questo inevitabilmente vanno avanti per la loro strada. Fanno bene, non fanno bene, hanno ragione, non lo sappiamo. Di fatto, comunque, questa situazione è ancora tutta particolarmente fluida. Noi torniamo a parlarne dopo la pubblicità e dopo i mercati, e tra pochissimo. Cuore e denari. Si apre l'ufficio del direttore e vedi una luce che ti prende. Lui era seduto con una finestrona dietro su un trono con l'anello della banca. Per te c'era un inginocchiatoio, ti mettevi lì. Diceva, prego, baci l'anello e poi dica cosa posso fare per lei. Quante volte abbiamo scomodato Bertolino con questo sketch che ci piace sempre moltissimo. Effettivamente qualche volta un po' di timore reverenziale nei confronti della banca ce lo abbiamo. E allora invece dobbiamo cominciare appunto a renderci conto del fatto che abbiamo di fronte a noi, come dico sempre, un negozio con il quale si può trattare, rivendicare, negoziare, ma non è sempre facile. Qualche volta poi le trattative diventano estenuanti, insomma siamo più portati a mollare. Detto questo, sul tema di questa mattina qualcuno forse però ha tutto il diritto di battagliare. Avvocato Fiorio, torno a lei, stiamo parlando della pratica anatocistica che le banche continuano ancora ad applicare, anche se la legge di stabilità del 2014 ha fatto di fatto divieto nel farlo, anche se questa legge ha lasciato un po' un vuoto regolamentare più che normativo, perché ha chiesto al Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio di disciplinare alcuni aspetti, e aspettando questa nuova disciplina le banche hanno detto: sai che c'è, noi intanto continuiamo a capitalizzare gli interessi sugli interessi. Detto questo, visto che il Tribunale di Milano ha detto no, attenzione care le mie banche, adesso vi inibisco dal continuare a farlo, lo ha fatto nei confronti di 3 banche, ma probabilmente vi aspettate anche, avvocato, un'azione inibitoria anche nei confronti degli altri colossi del credito italiano. Quello che c'è da capire adesso è che cosa possono fare coloro che si ritengono gravemente danneggiati dalla pratica anatocistica degli ultimi anni, come nel caso dell'imprenditore che abbiamo sentito. Lui dice: sì sì, grazie che mi state dando tutte queste informazioni, io però voglio quelle concrete. Cosa devo fare per rientrare nella legittima proprietà di quello che mi è stato sottratto in questi anni? Chissà quanto avrà pagato il nostro amico che ci ha chiamato da Genova. Allora, voi intanto che strada suggerite di intraprendere? Ma allora, sicuramente in caso di affidamenti, disposizioni o di sconfinamenti consistenti è sicuramente opportuno fare dei calcoli. Dobbiamo dire che l'anatocismo è vietato dal 1 gennaio del 2014, nel periodo precedente era consentito a certe condizioni, quindi bisogna fare delle verifiche caso per caso, anche certo. Soprattutto sui periodi precedenti. Nel periodo successivo no, quello era assolutamente il divieto opera per tutti i soggetti, e quindi si tratta sostanzialmente di fare dei conteggi. Sicuramente in alcune situazioni, quando ci sono delle imprese che hanno dei soggetti che hanno degli affidamenti a revoca, andare a contestare alle banche il calcolo, l'addebito di interessi illegittimi può essere pericoloso, però in ogni caso è importante che il cliente della banca conosca quantomeno se ha diritto a ottenere in restituzione una parte certo. di quanto pagato e a quanto ammonta. Cosa può fare? Quindi, a chi può farsi fare questo calcolo se ritiene appunto che rianalizzare la sua situazione pregressa sia un lavoro un po' complicato? Magari un imprenditore, io non perché non voglia farlo venire da voi, avvocato Fioro, però magari ad un'associazione dei consumatori, anche se voi seguite poi casi anche di piccoli imprenditori, immagino. Ma sì, noi seguiamo anche casi di piccoli imprenditori, ci sono anche delle associazioni che seguono le piccole imprese. In ogni caso il Movimento Consumatori in diverse occasioni ha anche sentito e dato qualche consiglio alle micro imprese che hanno dei problemi che di fatto sono poi identici a quelli dei consumatori, se non accesso al credito più importante. Volevo solo dire una cosa per quanto riguarda il CICR e la posizione della Banca d'Italia. Sì. A me non risulta che la Banca d'Italia abbia preso alcuna posizione ufficiale, anzi, a me risulta esattamente il contrario, perché così come accertato dal Tribunale di Milano, anche questa era stata una delle difese delle banche convenute in quel giudizio, il Tribunale di Milano ha rilevato che non c'è nessuna posizione ufficiale di Banca d'Italia su questo tema. E secondo aspetto, oggettivamente è vero che la norma è incompleta, ma è incompleta non sotto il profilo del divieto. Quello è completo. Certo. Quindi, come dire, a esatto, oggi, perché lì si tratta anche di capire che forza ha una regolamentazione del CICR rispetto ad una norma primaria, che è quella della legge di stabilità. Il CICR non può in alcun modo derogare né spostare l'entrata in vigore né trattare neanche, come dire, i casi di diritto cosiddetto transitorio, perché sono, come dire, regolati tutti in maniera chiara da una norma primaria. Quindi la Banca d'Italia da questo punto di vista non può assolutamente, come dire, emanare alcun consiglio, suggerimento o circolare che sia in contrasto con una norma di legge su una materia così importante e così determinante. Adesso, anzi, sì, noi invitiamo, abbiamo invitato già in diverse occasioni la Banca d'Italia su questo tema a svolgere un'attività di vigilanza, perché doveva essere la Banca d'Italia a inibire alle banche di applicare gli interessi anatocistici, non un movimento consumatori. E la Banca d'Italia adesso deve obbligarle a restituire a tutti i soggetti quanto è stato illegittimamente pagato. Allora, io su questa posizione della Banca d'Italia devo dire che ho preso questa notizia dalla rivista del Sole 24 e Diritto 24, un commento di Andrea Sganzerla. Prima cosa, poi adesso magari anche l'avvocato Stanuovo mi preciserà qualcosa di più in merito a questo. Seconda cosa, chiaramente per par condicio dobbiamo anche dire che cosa hanno detto le banche interessate all'azione inibitoria del Tribunale di Milano. Sono la BPM, Deutsche Bank e ING Bank, hanno detto che questa vicenda, che interessa tutto il sistema bancario nazionale, anche se la prima azione inibitoria appunto è andata a loro, si è verificata a causa di un assetto normativo non completo dovuto alla perdurante assenza di regole amministrative che, secondo il testo unico bancario, dovrebbero stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi nei rapporti bancari, al fine di dare certezza a clienti, ma anche, giustamente hanno ragione anche loro, agli operatori. Avvocato, dove vuole cominciare? Lei, peraltro, se questo imprenditore di Genova venisse nel suo studio legale, che cosa gli suggerirebbe di fare? Allora, io la prima cosa che farei sarebbe rivolgermi a un consulente contabile di mia fiducia, che, del quale io sia sicuro per quanto riguarda la correttezza dei calcoli. Ci sono criteri abbastanza opinabili, ci sono molti aspetti problematici dal punto di vista contabile e ci sono alcuni conteggi che sono meno sostenibili di altri, altri che sono più sostenibili. Io di solito, quindi intanto non partiamo in quarta ritenendo che abbiamo totalmente ragione, no? Magari bisogna fare una verifica. Io mi affiderei a un consulente di cui io avvocato ho fiducia, perché il mio cliente può non avere una rete di conoscenze di questo genere. Io mi affido al consulente sapendo che non mi farà vedere la luna nel pozzo, né a me né al cliente, perché farà dei calcoli equilibrati senza utilizzare criteri che magari so che la giurisprudenza non accoglie. Quindi la prima cosa che farei sarebbe quella di fare una verifica, chiaro, contabile con un consulente, ripeto, della massima affidabilità. Mm-hmm. E dopodiché suggerirei, in base all'esito di questa consulenza, suggerirei al cliente di valutare se il gioco valga la candela, cioè se sia il caso di rischiare di minare il rapporto di fiducia. Lei con ce l'ha una soglia che vale la candela, secondo lei? Guardi, qual è il livello economico per cui vale la pena intraprendere una iniziativa appunto contro la banca? Guardi, io per meno di 10.000 euro neanche pensa di muoversi. Salvo ci siano delle situazioni particolarmente particolari, ma non consiglierei di muoversi, anche solo perché so che la perizia che si commissiona, certo, al già, consulente, e il mio intervento, non dico che arrivino a costare 10.000 certo euro, ma poco ci manca. Poi insomma ci sono delle persone che per delle questioni di principio fanno delle battaglie anche per importi molto inferiori, senz'altro. Questa è una scelta del tutto personale, però insomma lei suggerisce poi per i costi che devono essere sostenuti fra perizie, attività di consulenza, un legale che serve, eccetera, per me per una causa che per un pregiudizio, come lo chiamerebbe l'avvocato Fiori, o anche lei, di valore, sì, inferiore, forse non vale, sì, la pena. Forse. E poi soprattutto teniamo presente che se il cliente ha chiuso i rapporti con la banca, allora ha una libertà di, ecco, movimenti maggiori, ma se ha degli affidamenti in essere, insomma, rischia veramente di minare, bravo, il rapporto di fiducia. Come ci segnala Pietro al 349-238-6666, che dice: se reclamo con una banca, poi corri il rischio che mi revochino i fidi, ci vuole un sistema di controllo che tuteli la parte debole, quindi abbiamo anche questo problema. Avvocato Fiori, c'è un ascoltatore, perché noi stiamo parlando di scoperti di conto, di conti affidati, di fidi bancari. C'è Domenica che scrive: ma l'anatocismo viene applicato anche sulle carte di credito? Sulle carte di credito questo dipende, su quelle revolving sì. Che non sono più tanto diffuse adesso, hanno avuto un grande momento di gloria nel passato, poi quando si è visto effettivamente come funzionavano e come facevano moltiplicare come i pani e i pesci gli interessi, effettivamente anche i consumatori scottati hanno cominciato a star lontani da questi strumenti, per cui Domenica dipende dal tipo di carta che ha. 800 24 00 24, numero verde per gli ascoltatori, abbiamo ancora 20 minuti di tempo per sentirli. Fra un po' il traffico, prima però sentiamo sentirei Roberto dalla provincia di Verona. Roberto, perché aspetta da molto. Roberto. Sì, dottoressa, buongiorno. Ma guardi, buongiorno. Non sono neanche infermiera, si figuri. No. Roberto, ci dica. Io volevo portare la mia testimonianza come imprenditore di Verona, che sono a capo di una media impresa. Proprio sì. In questi giorni ho avuto un incontro con dei piccoli imprenditori e ho detto loro, innanzitutto bisogna partire, ecco, anche da queste piccole aziende che sappiano controllare l'estratto conto, che qualcuno gli dia una preparazione, perché io ho visto, come poi mi potranno correggere i suoi ospiti, l'anatocismo, il cosiddetto commissione massimo scoperto che è stata tolta, che adesso mettono il CSA, che è la commissione sugli affidamenti, sì. Che anche lì in definitiva non sarebbe altro, come per spiegare ai nostri telespettatori, se io vado a prendere un chilo di pane, pago il pane e più pago una percentuale perché il panettiere mi ha tenuto il pane, il chilo. Sì, sì, la messa a disposizione, diciamo, di queste cifre, ne abbiamo parlato anche in passato con Altro Consumo, con Anna Vizzeri, sì sì Roberto, ci ricordiamo. E abbiamo spesso detto, insomma, la commissione di massimo scoperto che esce dalla porta per rientrare dalla finestra. Come potranno magari approfondire i suoi ospiti, alcuni piccoli imprenditori mi hanno detto, ma lei usa soldi della banca, si parla di quantitative easing, questo, quell'altro, ci sono dei fiumi di denaro. Io gli ho dato una spiegazione sì. Chiara. Dopo non so se viene condiviso o meno, la banca vi dà soldi dove ha le garanzie che quei soldi rientrino, se no non ne dà. Roberto, è vero, c'è un fiume di liquidità sul mercato, la Banca Centrale Europea ne ha data tante in questi anni, però c'è anche la vigilanza bancaria europea e ci sono tanti nuovi paletti che il sistema bancario italiano ha e che lo fa ritenere in diritto di essere molto più rigida nell'erogazione del credito rispetto al passato, per cui in realtà da una parte ha maggior severità nell'essere trattata proprio per il fatto di essere in Europa. È una questione molto complessa, noi rimaniamo nel nostro seminato, valutiamo la situazione di piccoli consumatori e di piccoli imprenditori che però per questa simpatica pratica dell'anatocismo si sono trovati anche molto spesso in difficoltà enormi. Sì, il traffico. Cuore e denari. Amore, scusa, ti vorrei notiziare sul mio tipo di sonno che nella sua prima fase, essendo molto rapido, è anche, ahimè, molto leggero. Quindi ti pregherei proprio la massima cautela nei movimenti con i piedi e soprattutto con le lenzuola. Allora, anche voi avete il sonno leggero come Furio, proprio non riuscite a chiudere occhio. Secondo i dati di una ricerca di Assosalute, l'Associazione Nazionale Farmaci di Automedicazione, 8 italiani su 10 vivono una situazione di stress che si presenta talmente di frequente da causare lievi disturbi, fra cui anche l'insonnia. Allora, voi siete tra questi, 8 su 10 sono tanti, Come cercate di porvi il rimedio? Con una tisana distensiva prima di andare a letto? Andate subito con la melatonina? Oppure, insomma, altri rimedi? Accendete la TV per addormentarvi davanti ad un programma noioso, oppure la spegnete, vi fate una doccia calda e rilassante? 349-23, parlate di anatocismo perché magari pure quello un po' addormenta. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, ma potete continuare naturalmente a chiamarci. Vogliamo che ci raccontiate se conoscete un rimedio della nonna che possa far conciliare il sonno. Rimedi della nonna, erbe, regole dell'igiene del sonno da seguire, quale consiglio vi sentireste di dare ad un amico che soffre di insonnia? Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. Allora, beh, c'è chi ci va, che si piazza lì davanti allo sportello bancario magari per contestare qualche cosa, come per esempio l'applicazione di questi interessi anatocistici dei quali stiamo parlando questa mattina. Siamo stati anche bravi, avvocato Staunovo, insomma, a cercare di spiegare in termini semplici in che cosa consiste questa pratica, quali sono state le ultime novità che potrebbero permettere a molti correntisti o piccoli imprenditori danneggiati da questa pratica di chiedere alla banca di farsi restituire il maltolto. Chiamiamolo così. È con noi anche l'avvocato Paolo Fiorio del Movimento Consumatori, al quale a questo punto voglio chiedere, sempre sull'onda, anzi no, sentiamo gli ascoltatori, poi ci facciamo raccontare all'ultimo minuto perché avete chiesto, avete messo a disposizione un sito internet con la vostra associazione dei consumatori. Avvocato, che cosa farete con tutto ciò che raccoglierete attraverso questa iniziativa? Sentirei Giampiero da Verona. Giampiero, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo un attimo collegarmi all'esempio che è stato fatto in apertura, sì, che forse potrebbe creare eccessive aspettative. La caratteristica di un conto corrente non è quella di restare immobilizzato dall'1/1 al 31/3 o comunque al trimestre di riferimento, ma è quello di avere un'alternanza di operazioni a debito e operazioni, certo, a credito, certo. Quindi è vero che io addebito i miei interessi, ma se successivamente all'addebito degli interessi viene fatto un versamento che copre gli interessi o in parte o totalmente, è evidente che questi interessi devono considerarsi pagati, e quindi sul residuo a debito forse è legittimo che vengano calcolati ulteriori interessi. È un funzionario di banca, Giampiero, lei mi scusi, no, tanto per capire. Prego? È un funzionario di banca che ha voluto sostenere questa posizione. Tanti, no, noi abbiamo capito. Sono stata io ad insistere con i miei ospiti nello portare in studio esempi molto semplici per far capire a chi non ha fatto la sfortunata conoscenza con l'anatocismo di che cosa stessimo parlando. Per cui ho capito la sua posizione. Abbiamo fatto un esempio, per quello dei 10.000-10.500, sì, banalizzando ai massimi termini la questione per farla capire a tutti. Detto questo, è chiaro che non possiamo esemplificarla così, perché nessuno avrà una situazione così cristallina. Avvocato Stanuovo. Sì, no, chiaro. La movimentazione dei conti correnti è molto complessa, quindi è stato quello che ho fatto all'inizio, certo, è stato un esempio. Tra l'altro ho fatto un 5% annuale, in realtà poi parlando ho fatto una liquidazione trimestrale, quindi i conteggi si possono fare, però era proprio un esempio fatto per far capire, certo, a tutti. A proposito di conteggio trimestrale, allora, azione inibitoria al Tribunale di Milano, queste tre banche sotto i riflettori, ammettendo di essere correntista di una di queste tre banche, avvocato Stanuovo, a giugno arriverà la liquidazione degli altri interessi. Eh sì. E quindi? E quindi bisognerà vedere che cosa succede, come si comporteranno adesso le banche. C'è un primo punto che io vorrei evidenziare. Questo è un pronunciamento autorevole di due collegi di magistrati autorevolissimi del Tribunale di Milano, ma teniamo sempre presente che si tratta di un tribunale. Ci sono tanti tribunali in Italia, quindi non sappiamo cosa ne pensi, per esempio, il Tribunale di Bergamo o qualunque altro tribunale territoriale. E soprattutto non sappiamo cosa ne penserà la Corte d'Appello di Milano e la Corte di Cassazione. Finché non ci sarà un pronunciamento di questa autorevolezza, forse dire che la battaglia è terminata non è corretto. Avvocato Fiorio, siete pronti eventualmente ad un'eventuale marcia, una direzione diversa che potrebbero prendere appunto la Corte d'Appello, la Cassazione addirittura? Insomma, è ovvio che siate preparati a tutte le eventualità. No, ma siamo consapevoli che la battaglia non sia per nulla terminata. Noi abbiamo lanciato una campagna che si chiama Stop Anatocismo, che ha uno dei fronti, è quello giudiziario, ma non è l'unico. Per cui per noi la battaglia è appena iniziata, e noi abbiamo depositato nei giorni scorsi altre nuove 10 azioni inibitorie, perché riteniamo che debba essere inibita questa pratica nei confronti di tutte le banche o del maggior numero possibile. Quindi, tra l'altro, quei 2 miliardi di euro che abbiamo detto prima è un conteggio, diciamo, ipotetico, che riguarda tutto il sistema bancario dal primo gennaio del 2014 in poi. Che cosa può aver provocato l'applicazione di tutte le banche degli interessi anatocistici, no? È una stima, dell'ammontare degli interessi anatocistici di tutte le banche per tutti i clienti annui, quindi vuol dire che a oggi, secondo questa stima, che comunque è una stima prudenziale, ripeto, ad oggi, come dire, siamo ad oltre quasi a 3 miliardi, perché è passato un anno e mezzo da quando il divieto è operativo, e la nostra stima è una stima molto, molto considerevole. Allora, no, mi scusi, è che sente la musica, devo chiudere fra 20 secondi, sennò mi tagliano dalla regia. Quello che posso segnalare è: scrivete se siete interessati a partecipare a questa battaglia a sosbanche@movimentoconsumatori.it. Potete trovare anche le ordinanze del Tribunale di Milano sul sito www.movimentoconsumatori.it. Siamo solo agli inizi, avvocato Stanuovo, anche lei lo seguirà con noi, no? Tutto questo cammino. Molto volentieri. E la richiameremo per spiegarci in termini molto semplici, come ha fatto questa mattina, l'evoluzione di questa faccenda complicata, da oggi un po' meno complicata. Abbiamo capito qualcosa in più. Grazie molte. Grazie a voi. Avvocato Fiorio, anche lei, noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, ma torniamo con il sonno subito dopo. Cuore e denari. Chissà se stai dormendo, ma cosa stai pensando? Oggi vogliamo parlare di sonno. Intanto vi chiediamo, come avete riposato questa notte? Avete avuto un sonno un po' disturbato, agitato? Qua sono arrivati anche un po' dei temporali, magari hanno disturbato qualcuno, non a Milano, abbiamo aspettati per tutte queste ore, invece nulla. Il proverbio dice: aprile è dolce dormire, ma su maggio non abbiamo notizie, abbiamo solo il detto finanziario Sally May and Go Away, ma non so se appassioni Luca Avoledo, il nostro ospite di questa mattina. Il dottor Avoledo è naturopata, nutrizionista a Milano, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, intanto, siccome non abbiamo notizie su maggio, abbiamo invitato i nostri ascoltatori a darcele. Vogliamo parlare di tutti quei lievi disturbi che possono ostacolare un bel sonno profondo e ristoratore. Sono tante le cause che possono portarci ad affrontare male la nottata, però oggi vorrei precisare, non vogliamo parlare degli insonni cronici, ma quelli che magari hanno degli episodi estemporanei, temporanei. E allora, quali sono le ricette che adottate? Nicoletta mi ha suggerito di chiedervi quali sono le ricette della nonna, possono andare dalla semplice camomilla, ma voi vi siete sbizzarriti con tutto. Leggo già qualche messaggio, poi lo commenteremo con Luca Avoledo. Max dice: metodo antico, leggo un libro, possibilmente pesante, ottengo un risultato doppio, dormo bene, ho imparato qualcosa. Maria scrive: vecchio rimedio per l'insonnia, andare a letto solo quando si è fisicamente molto stanchi e non dopo aver passato un paio di ore seduti davanti al PC o alla TV. Marco da Ferrara, che è il nostro amico che ci scrive sempre: vuoi far dormire una donna, falle vedere una partita di calcio o un torneo di poker. Dottora Avoledo, sono anche queste le soluzioni che suggerisce lei alle persone che si rivolgono nel suo studio per rappresentarle questi problemi di disturbi di sonno? Qualcuna sì, qualcuna no, veramente spiritosi gli ascoltatori di Cuore e Denari. Mi piacevano in particolare le cose che diceva, da un punto di vista appunto un po' più strutturato, Maria, quando parlava di andare a letto veramente stanchi e di fare sostanzialmente un po' il buio in casa. Mm-hmm. Queste sono due cose fondamentali che sembrano banali, ma di igiene del sonno. Primo, il letto deve essere usato solo per dormire ed eventualmente per l'attività sessuale, che tra l'altro invoglia il sonno e concilia per la produzione di endorfine. Non per leggere, non per mangiare, non per guardare la televisione. In più... Ah, non la lettura a letto? No. È meglio di è no? È meglio leggere sul divano e quando si sente Morfeo arrivare ci si sposta a letto. Per associare proprio il letto al riposo e non ad altre attività, anche da un punto di vista mentale. In più è indispensabile fare il buio in casa, dopo le 9 abbassare le luci, guardare chi ha problemi di insonnia decisi, meno televisione, ma soprattutto sono molto deleteri gli odierni e diffusissimi dispositivi retroilluminati. Mm-hmm. I vari lettori digitali di libri, gli smartphone, i vari iPad, cose di questo tipo, che disturbano proprio il sonno per la luce che creano e inibiscono la produzione di melatonina, certo, l'ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Sappiamo di avervi pizzicati, ognuno di voi certamente ha una delle cattive abitudini che abbiamo descritto fino a poco fa prima di andare a dormire. Allora confessatecelo all'800240024. Possiamo partire intanto da quelle per analizzare se sono quelle la causa del nostro sonno disturbato. Se invece c'è dell'altro, confrontatevi con noi, vediamo se possiamo col dottor Avoledo appunto trovare altri rimedi. Il sonno è fondamentale per la nostra vita perché dormire aiuta a proteggere il cervello, consolida la memoria, migliora l'apprendimento, ripulisce il cervello, lo dicevamo nelle anticipazioni, dalle scorie prodotte dalle cellule cerebrali. Ci sono persone per cui questa esigenza, questo vero e proprio bisogno fisiologico, sembra proprio essere lontano, quindi ci prova, ci riprova, spera che la palpebra cali, ma fa fatica. Allora cosa fa? Conta le pecore, si piazza sul divano davanti al televisore, come dicevamo prima, inforca un libro, chi si mette le cuffiette alle orecchie, sceglie una musica rilassante, sperando appunto che l'accompagni pian piano verso la via del sonno. Ci sono tanti modi. Certe volte si cerca, dottora Avoledo, la camomilla, l'erba che concilia il sonno per antonomasia, la si dà anche ai bambini, no? Per così favorire questo momento. È meritata questa sua fama? Nel senso, benissimo la camomilla, perché nell'immaginario collettivo si associa al sonno. Mi sorseggio una camomilla, mi fa già venire voglia di andare a dormire. In realtà esistono piante più interessanti e la camomilla ha altri vantaggi, in particolare molto utile per alcune problematiche digestive, più che come erba sedativa, quindi nel reflusso, nel mitigare anche dolori crampiformi di colite, dismenorrea, quindi ciclo mestruale. Per il sonno è meglio qualcos'altro, però è vero che comunque un infuso caldo e comunque una certa attività sedativa ce l'ha anche la camomilla. Non il tè. Il tè no, perché contiene caffeina, esattamente come il caffè latteina e la caffeina sono la stessa identica cosa, e quindi il tè, soprattutto nei soggetti un po' sensibili, non andrebbe bevuto. Mm-hmm. 800 24 00 24, qual è il vostro infuso magico predormita? Sì, mettetelo a nostra disposizione, il vostro rimedio. Probabilmente ci sarà qualcuno che non ci ha pensato e che magari coglierebbe molto volentieri questo suggerimento. Forse è proprio l'erba per antonomasia, la camomilla per il buon sonno, usata anche per addormentare i più piccini nel biberon. Dicevamo, secondo uno studio condotto presso l'Università di Scienze e Tecnologie in Norvegia, pensate che questo è un dato che mi ha colpito molto: a 4 anni il 17% dei bambini si è rivelato insonne, a 6 anni si sono rivelati insonni il 43% dei bambini. Allora, oltre alla camomilla c'è anche il tiglio, dottor Avoledo, giusto? Giusto, questa è un'erba forse ancora un po' più interessante della camomilla. Si può preparare anche lei in tisana, anche un paio di tazze al giorno, e il tiglio ha proprio delle proprietà antiansia, sedative. L'ansia è spesso il substrato su cui cresce l'insonnia. Magari siamo in tensione tutto il giorno, uh-huh, è impensabile arrivare alle 11 di sera e poter dormire. E il tiglio, una bella tisana di tiglio, o anche le goccine, il cosiddetto gemmo derivato di tiglio, si prendono 30-50 gocce in due dita d'acqua anche diverse volte al giorno, aiuta a rilassare e le manifestazioni anche somatiche dell'ansia, quindi il sonno, anche le palpitazioni, quindi è un detensivo molto interessante. Dall'erba presentata come concilia sonno ad un alimento che finisce spesso nel banco degli imputati come nemico del sonno, che viene di conseguenza subito eliminato per chi con il sonno ha qualche problema. Parliamo inevitabilmente del caffè. C'è chi sicuramente ha, c'è una sensibilità, diciamo, individuale nei confronti di questa bevanda, perché qualcuno ne può bere fino all'ultimo momento prima di andare a dormire, addirittura. Sono varianti genetiche, ci sono persone che assorbono e metabolizzano in maniera diversa la caffeina, quindi è proprio vero. Esatto, chi invece ne prende solamente fino all'una del pomeriggio, magari al massimo quello dopo pranzo, dopodiché nel pomeriggio non ci si può neanche lontanamente avvicinare, perché altrimenti il sonno va a farsi benedire. Quindi a patto che si scelga quello giusto fra caffè e tè, dottor Avoledo, torniamo ad abbinarli entrambi. Ecco, dicevo proprio che appunto il tè non è un grande vantaggio rispetto al caffè, ma esistono alcuni tipi di tè, addirittura il tè contiene anche altre molecole rispetto al caffè che sono eccitanti, come la teofillina e la teobromina, quindi il tè non è un'alternativa. Alcuni tipi di tè però invece possono esserlo, in particolare il tè verde in termini del tutto generali, perché anche lui ha la caffeina, ma anche delle sostanze come la teanina, che invece ha un effetto sedativo, rilassante, quindi sostanze che vanno ad antagonizzare gli effetti della caffeina. E addirittura alcuni tipi di tè verde, si fa presto dire tè verde, ci sono decine se non ancora di più varietà di tè verde, un tè verde particolare giapponese che ti chiama tè bancia, è un tè a ridotto contenuto di caffeina, quindi se qualcuno vuole un pochino di caffeina per svegliarsi ma non avere effetti troppo iper di eccitazione, potrebbe ricorrere al tè bancia. Allora, 800 24 00 24, prima di proseguire la nostra chiacchierata, anzi non prima di proseguire, proseguiamo la nostra chiacchierata con Luca Avoledo prendendo a spunto le vostre testimonianze. Sentiamo Emilio da Roma che ci chiama, ci chiede aiuto. Emilio, benvenuto. Grazie, buongiorno dottore. Innanzitutto volevo dire, ci sono dei metodi di preparazione del tè, quindi se si versa l'acqua calda nel tè dentro il bicchiere già è diverso da come invece zuccherato e infuso nell'acqua calda. Quindi anche questo, lei dice Emilio, influisce sulla qualità del sonno, poi la modalità di preparazione del nostro infuso. Sì, perché così rilascia tanta teina. Comunque la sera è molto meglio prendere una tisana. Veniamo al punto mio. Sì. Il discorso base è questo. Io soffro mensilmente di vari giorni, vari notti che non dormo. Quindi arrivo verso le 6:30, le 7 di mattina e mi alzo per fare la colazione alle bimbe. Questo. Volevo sapere però, è un fatto ansioso, cioè l'ansia potrebbe come dire generare lei questo generare, sì. Certo Emilio, beh certo, bisognerebbe fare una lunga chiacchierata con lei, capire quali sono i fattori di disturbo che alterano queste sue giornate nottate, Luca Voledo. Sì, però l'ansia l'ha centrata, come alcune considerazioni che faceva sul tè sono giuste. L'ansia, dicevamo prima, è il substrato su cui spesso si innestano i disturbi del sonno, quindi è molto probabile, le cause possono essere tantissime. In alcune fasi della vita si dorme meno bene, con l'invecchiamento, ma anche in menopausa, che non credo che riguardi il nostro ascoltatore. Magari anche lo disturba quello della moglie, sappiamo. Ma anche i disturbi dell'umore, per esempio, oltre all'ansia, provocano in genere ricadute sul sonno, oltre al fatto che quando si dorme male si hanno anche disturbi dell'umore, e per esempio risvegli precoce, quindi un inizio, non dico di depressione, ma problematiche di mancanza di serenità, se poi accompagnate anche da ansia, tensione, nervosismo, inquietudine. La mancanza di sonno è un segnale molto importante di un'allerta che in qualche modo il nostro organismo ci manda, perché non riusciamo a staccare mai tante volte, abbiamo tante cose a cui pensare, lavoro, vita privata, familiare, e andiamo a letto ma il nostro cervello continua ancora a girare come un disco rotto, ma quelli di vinile che magari i nostri ascoltatori più giovani gracchiano anche non un po' ricordano. Magari non confidi a tutti la nostra età, Voledo, che tra l'altro lei pure è molto più giovane di me. Prima di sentire Antonello da Cagliari e Flora da Verona, un'altra considerazione: non solo dormire un giusto numero di ore, ma anche il fatto che il sonno sia profondo e continuo per noi è una carica importante, non solo quindi la quantità della dormita, ma anche la qualità della dormita è molto importante. Verissimo. Nicoletta lo ha detto molte volte, ci sono delle abitudini o delle vere e proprie regole, dottora Voledo, che possiamo stabilire, di cui magari non ci rendiamo conto, ma che alla lunga possono disturbare la qualità delle nostre nottate, adesso a prescindere dal ragionamento che abbiamo fatto su l'umore, lo stress, c'è dell'altro? Sì, alcuni ne anticipavamo prima, appunto come il fatto di non stare in ambienti troppo illuminati di sera, televisione, telefonini eccetera, fino al momento in cui si va a dormire, ma ci sono anche altre buone norme che devono essere messe in atto, soprattutto nei disturbi sporadici o anche per facilitare l'opera e il lavoro di farmaci o di rimedi naturali che possono essere utili in queste circostanze. Ad esempio a cena mangiare in un certo modo piuttosto che in un altro può provocare delle ricadute sul sonno. Esagerare con i carboidrati, in particolare con i zuccheri semplici, è vero che magari invoglia il sonno, ma spesso si hanno poi dei cali di glicemia durante la notte che spingono il cervello a risvegliarsi, perché è un segnale, come dire, mi manca il cibo. In realtà è un segnale fittizio, ma è semplicemente la risposta all'ipersecrezione insulinica legata magari a dolci o troppi carboidrati mangiati a cena. Insomma, se volete quindi il pezzo di crostata prima di andare a dormire, ricordatevi di abbinarci la proteina, così non abbiamo il salto glicemico, no? Perché sai, se Speciani è stato qua due giorni fa, quindi Speciani, mi ricordo le sue regole. È proprio un maestro. Lui suggerirebbe di abbinare la proteina, magari adesso non so se magari evitare di mangiare. Oppure evitare di mangiare troppi carboidrati e riservarli, senza evitarli, ma riservarli ad altri momenti della giornata, il pranzo e la colazione, dove i nostri ormoni sono diversi. Un'altra cosa che fanno tanti perché credono che invogli il sonno è bere alcolici. È vero che bere alcol crea sonnolenza, anche il comune vino, se non il grappino che qualcuno si fa a metà serata, ma disturba il sonno poi, cioè va a scardinare l'architettura del sonno, quindi l'alternanza delle fasi in cui il sonno è diviso. E quindi soprattutto chi ha problemi non tanto di addormentamento ma di risveglio precoce, di sonno disturbato, di interruzioni del sonno, l'alcol dovrebbe essere evitato a cena, così come le sostanze che dicevamo prima, tè, caffè, anche il cioccolato contiene teofilline e teobromina, quindi sono sostanze eccitanti, almeno da 6 ore prima rispetto al momento in cui si va a dormire dovrebbero essere evitate. Antonello da Cagliari all'800240024, eccoci a lei, benvenuto. Buongiorno. Io quando, non sono un insonna, non ho questa insonnia cronica, però insomma normalmente di notte ci capita di svegliarsi. In questi casi mi concentro sul mio respiro, mi cerco di rilassare proprio sul respiro, cercando di tenerlo molto calmo, molto soft, in modo tale così da farmi accompagnare di nuovo nelle braccia di Morfeo. Grazie Antonello, la saluto velocemente perché ci mancano pochissimi minuti, ma vorrevo sentire anche Flora, che forse ha una tecnica simile per addormentarsi. Flora, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ecco, io immagino di essere in riva al mare. Ah, quindi sdraiata sulla sabbia e immagino di sentire le onde del mare. Grazie, cerco Flora. Di visualizzare l'impronta del mio corpo sulla sabbia, partendo dal tallone e man mano vado su. E di godersi il tepore del sole, Flora, insomma, qua, come dire, altro che contare le pecore, ormai sono teorie tramontatissime. Dottora Voledo, andiamo invece agli infusi, alle erbe che le suggerisce, appunto, che possono favorire un sonno equilibrato, di qualità, duraturo quanto basta per garantirci una qualità della giornata poi che segue la dormita. Ce ne sono tante e anche qua sarebbe interessante capire le ragioni del sonno disturbato. Per esempio, perché ad ogni disturbo il suo infuso. Più che ogni disturbo, ogni circostanza, come dicevamo prima, ad esempio, è vero che l'ansia è un disturbo, quindi in caso di ansia si può agire con piante sedative antiansia, quindi valeriana notissima, che inducono anche il sonno, tra l'altro queste piante, melissa, biancospino, il tiglio, la passiflora, tutte piante passiflora incarnata antiansia e che poi hanno degli effetti sul sonno. Però per esempio nelle donne in menopausa, cui accennavamo prima, che spesso soffrono di insonnia, queste piante sono senz'altro utili, perché soffrono spesso anche di ansia, di disturbi dell'umore in questa fase della vita. Però è molto più interessante, siccome questa insonnia è legata all'alterazione, a una variazione della produzione ormonale, agire con piante che vanno a riequilibrare l'assetto ormonale a cui si deve il disturbo del sonno, come i fitoestrogeni. Infatti, bere durante tutta la giornata, dottora Voledo, o dobbiamo illuderci del fatto che un tisanone 3 secondi prima di andare a dormire ci fa schiantare? Oltre al fatto che bere un tisanone prima di andare a dormire ci fa risvegliare, disturba il sonno, perché ci fa alzare per fare la pipì. Un'altra cosa che bisogna, tante persone bevono tanto prima di andare a letto e poi disturbano il sonno per risvegliarsi. L'ideale è arrivare al momento del riposo già belli tranquilli, quindi cominciare a prendere le piante in capsule in tisana alla mattina, al pomeriggio 2 o 3 tazze al giorno, o anche 2 o 3 capsule al giorno, il momento che arrivo al momento del riposo, bello, sereno, rilassato, pronto per andare a dormire. Speriamo di fare dei bei sonni questo weekend, dottora Voledo. Noi lo auguriamo anche a lei. Grazie molte per essere stato con noi. Grazie a voi. Io vi auguro lo stesso un buon fine settimana. Ci ritroviamo qua lunedì con Nicoletta Carbone. A tutti, buon weekend.